col visino mezzo incipriato, il più bel sorriso spensierato, giri per il corso più affollato, col tuo scatolone di novità. Oh, bella piccinina, che passi ogni mattina, scambettando lieta tra la gente, canticchiando sempre allegramente. Oh, bella piccinina, sei tanto birichina, che diventi rossa rossa se qualcuno la perla. Dolce una frase ti bisbiglia, ti fa l'occhiolin di triglia, ti saluta e se ne va. Quando tu sei sola al magazzino e allo specchio provi un cappellino, pensi sempre a quel giovanottino che ogni sera fuori t'aspetterà. Oh, bella piccinina, che passi ogni mattina scambettando lieta tra la gente, canticchiando sempre allegramente. Oh, bella piccinina, sei tanto birichina, che diventi rossa rossa se qualcuno la perla. Dolce una frase ti bisbiglia, ti fa l'occhiolin di triglia, ti saluta e se ne va. Semplice così sei come un fiore, non conosci i palpiti del cuore, ma se un dì saprai cos'è l'amore, tu rimpiangerai questa bella età. Oh, bella piccinina, che passi ogni mattina scambettando lieta tra la gente, canticchiando sempre allegramente. Oh, bella piccinina, sei tanto birichina, e diventi rossa rossa se qualcuno la perla. Dolce una frase ti bisbiglia, ti fa l'occhiolin di triglia, ti saluta e se ne va.